Porto il virgolettato di Cicchitto, capogruppo del PDL, che dice: la decisione nasce, rimandare la riapertura di una settimana, da una valutazione seria, dal momento che circa un centinaio di parlamentari fanno un pellegrinaggio, come la tradizione. Quindi è merito vostro se si parte con una settimana di ritardo, o merito o colpa, a seconda di come uno la voglia vedere. Non le so dire, io devo dirle che in tutti gli altri anni, in precedenza, non ho mai avuto la sensazione che l'inizio della Camera si stabilisse in funzione della fine del pellegrinaggio. Ho piuttosto la sensazione diversa, che il pellegrinaggio si collochi prima dell'inizio della Camera. D'altra parte, se fosse come dice lei, anch'io avrei le mie perplessità, perché voglio dire, noi cominciamo il nostro pellegrinaggio il 4 di settembre, ma niente impedirebbe che lo cominciassimo, che so io, il 26 di agosto. Ecco, infatti questa è Quindi, la domanda che io le facevo. Perché non ci si può andare ad agosto in pellegrinaggio ma io durante le vacanze? gliela giro la domanda. È che il pellegrinaggio è posto nel tempo in cui la Camera non è ancora aperta, perché questo è ciò che attiene davvero alla sensibilità, Allora, qua diciamo. comincia a diventare, mi scusi, un po' tortuosa perché, ripeto, No, allora forse. è molto semplice la cosa. Ma Cicchitto Evidentemente, non è no, d'accordo, però, perché dice un'altra cosa. io non so che cosa dice Cicchitto e poi lo giustificherà lui a chi intende giustificarlo lui. Quello che io intendo dire è che questi ultimi anni sempre il pellegrinaggio Viene è fatto stato durante le vacanze, posizionato sì. durante le vacanze e al termine delle vacanze, non all'inizio dell'anno politico. No, perché Questo è il comunque lei, messaggio chiaro e preciso. sì, comunque dico no, perché su questo sarà d'accordo, insomma, la situazione No, no, ma lei è è tale per d'accordo? la quale, insomma, Ma non se si sa questo se il Parlamento chiuderà domani, può darsi che i lavori potrebbe vadano anche avanti, riaprire il 16 di agosto, voglio dire, non certo. è che spargere questa ennesima informazione che i parlamentari vanno in pellegrinaggio, oltretutto trattandosi proprio di un pellegrinaggio, quando comincia il lavoro della Camera, mi sembra falso. Penso che Cicchito si sia sbagliato, onestamente. Se non si Ecco, fosse magari sbagliato, farò la mia domanda. parlatene insieme perché noi non abbiamo fatto altro che prendere atto di questo. Io guardi, glielo Beh, io ripeto. farò Allora, la mia domanda esplicita a sì, Cicchito, perché ecco. mi sembra grave questa affermazione. Sì. Quindi voglio dire, non ho mai sentito che il pellegrinaggio fosse posto all'inizio dell'anno politico, è sempre messo al termine delle vacanze, vorrei che questo restasse chiaro.